noi siamo per misure anche che abbiano carattere di impatto sulla questione e che non siano, come dire, retoriche. Fra queste mi piace segnalare anche un'idea di creare, diciamo, conflitto di interesse sul pagamento delle imposte con la parziale o totale deducibilità delle spese per la manutenzione della casa di abitazione. Introduciamo il tema di un'imposta ordinaria sui grandi valori immobiliari su criteri progressivi. Chiediamo un eccezionale contributo di solidarietà ai capitali scudati. Siamo pronti a rispondere a qualsiasi obiezione di carattere istituzionale sulla praticabilità e su qualsiasi cosa. Non siamo nati ieri, quindi se facciamo sta proposta perché ne sappiamo il solido fondamento. Ci occupiamo di reinserire e di inserire delle misure che scoraggino l'evasione, che incoraggino la regolarità nelle attività economiche, quindi reintrodurre le misure sul falso in bilancio, caporalato, autoriciclaggio. Nella pubblica amministrazione ci occupiamo del tema della giustizia, la razionalizzazione del sistema, la sua semplificazione, dal lato dell'interesse dei cittadini e non di uno solo.